A bordo campo di Dario Ricci. Grandi campioni azzurri oggi a bordo campo, ma non nel calcio, nel basket, nell'atletica, negli sport in cui siamo tradizionalmente fortissimi, ma in uno sport emergente che sta rapidamente conquistando trionfi e popolarità. Sentite un po'. L'Italia del golf, campione del mondo. Un anno straordinario per il golf italiano si è concluso con un'impresa straordinaria. L'Italia dei fratelli Edoardo e Francesco Molinari ha vinto l'Omega Mission Hills World Cup, disputata sul percorso disegnato dal campione spagnolo José María Olazabal, uno dei 12 campi del Mission Hills Golf Club, il mega resort tra le città di Shenzhen e Dongguan in Cina. Gli azzurri, che hanno conquistato il trofeo per la prima volta, hanno segnato lo score di 200. Insomma, ce lo racconta questo notiziario, trionfo straordinario per il golf azzurro nel segno di Francesco Molinari, benvenuto a bordo campo. Sì, salve, buongiorno a tutti. E di Edoardo Molinari, benvenuto Edoardo. Buongiorno. Insomma, lo sentivamo, il golf italiano, grazie al vostro successo a Mission Hill in Cina, ha vinto la World Cup per la prima volta nella sua storia. Avete battuto di un colpo l'Irlanda e la Svezia. Cos'è la World Cup? Ragazzi, aiutatemi, sbaglio sintetizzando nel dire che è la Coppa Davis del golf, Francesco? Sì, diciamo che c'è qualche analogia, perché comunque in uno sport individuale come il golf è, diciamo, la competizione più importante di professionisti per nazioni, e quindi ovviamente siamo felicissimi di aver portato a casa questo successo importantissimo per la prima volta nella storia italiana. Edoardo, il momento più bello di questa sfida cinese, beh, facile magari pensare a quando avete sollevato la coppa, ma il colpo decisivo direi che sarà difficile dimenticarselo. Sì, sicuramente l'ultimo putt è stato un momento bellissimo. Comunque direi che tutta la settimana ci siamo divertiti molto con Francesco e appunto è stata una settimana incredibile che non dimenticheremo mai. Grande talento che chiaramente si esprime sui green di tutto il mondo, ma la domanda magari banale ma spontanea è: ma perché il calcio no, il basket no e tutti che parlano del rugby? Insomma, come l'avete scoperto voi questo golf? Edoardo, chi è che è stato a trascinare sul green per primo l'altro? Ma papà e mamma, quando eravamo bambini, ci portavano al golf con loro durante i weekend e siamo stati fortunati che c'erano tanti ragazzini della nostra età che giocavano a golf e quindi andavamo al golf i weekend, però giocavamo un po' a pallone, un po' a golf, quindi era un modo di passare i weekend tutti insieme. Dalla passione al professionismo invece, Francesco, qual è stato il percorso che avete seguito? Perché lo sappiamo, il golf è una religione nel mondo anglosassone e vediamo ad esempio con quanta attenzione mediatica si hanno seguite anche le recenti vicende di un Tiger Woods e i milioni di euro e di dollari che movimenta. Altra cosa è invece il golf italiano, no? Sì, sicuramente è stato un percorso, quello della passione al professionismo, lungo e diciamo che andando avanti con gli anni ci siamo avvicinati alla nazionale dilettanti prima e poi le cose continuavano a migliorare per noi, ad andare bene, per cui abbiamo provato a fare questo salto un po' nel buio, anche perché, come dicevi tu, appunto in Italia non c'è moltissima cultura per questo sport. Però adesso fortunatamente le cose stanno cambiando, magari anche un pochettino grazie a noi, per cui siamo ovviamente felici della scelta che abbiamo fatto. Francesco, dicevamo, un percorso tutto in salita per diventare popolari, no? Come sport qui in Italia, ma direi che il golf sta recuperando a passi da gigante il tempo perso, perché oltre voi due mi vengono in mente i successi di Diana Luna in campo femminile e poi Matteo Manassero, che tra l'altro è già stato ospite di A Bordo Campo, che a 16 anni è un po' il talento emergente del firmamento mondiale. Da questo punto di vista, qual è la carta vincente, ecco, che può giocare il golf nella competizione con gli altri sport? Ma penso che comunque sia il fatto di poter fare questo sport in compagnia, all'aperto, con principi molto sani, anglosassoni, che possono assomigliare un pochettino a quelli del rugby, anche se gli sport sono ovviamente molto diversi. E poi sì, sicuramente adesso per l'Italia è un momento d'oro, per cui speriamo che questa esplosione di risultati faccia appassionare molti sportivi. Edoardo Molinari, invece a te chiedo, è uno sport il golf che però è ancora circondato di molti pregiudizi, no? Per molti in realtà non è uno sport, dice sì, bello il golf, però è il passatempo di signori di mezza età che vanno a divertirsi, prendere un po' d'aria all'aperto e quando gli va bene riesco a mettere questa pallina in una buca, a parte insomma l'alto livello delle competizioni che dimostra il contrario, ma questi pregiudizi voi li sentite ancora vivi? Ma sicuramente esistono ancora questi modi di pensare riguardo al golf, perché purtroppo la gente è abituata ancora alla situazione che c'era 10 anni fa, dove costava tantissimo, dove giocavano solo persone anziane. Però gli ultimi anni direi che è cambiata molto questa situazione, adesso ci sono tanti circoli dove ci si può fare soci con veramente pochi soldi e comunque direi che ultimamente il golf costa sicuramente meno di altri sport. Per di più ci sono molti più giovani che giocano, quindi credo che sono un po' dei luoghi comuni che tardano un po' nel tempo, ma che prima o poi finiranno. Bisogna anche considerare che recentemente, 4 ottobre 2009, a Copenaghen, il golf ha ottenuto un via libera decisivo. Ricordiamo tutti quel giorno perché c'è stata la grande vittoria di Rio de Janeiro nella corsa alle Olimpiadi del 2016. Ebbene, le Olimpiadi del 2016 saranno anche quelle in cui il golf entrerà a far parte del programma olimpico. Edoardo, bisogna affinare le mazze, concedetemi questa espressione, perché a quel punto far bene sul green vorrà dire anche portare medaglie olimpiche all'Italia, no? Sì, sicuramente è un sogno per noi golfisti il fatto di poter partecipare finalmente alle Olimpiade. Tutti noi guardiamo con ansia al 2016 alle Olimpiadi di Rio e speriamo di arrivare pronti e di fare bene e magari di portare a casa qualche medaglia. Da questo punto di vista l'Olimpiade è la casa più adatta per il golf, proprio perché questo sport circondato da questo glamour, da questi ricchi montepremi, in qualche modo ben coincide con lo spirito olimpico, oppure siete già pronti a far fronte alle critiche degli scettici? Ma io penso che una volta che il golf arriverà alle Olimpiadi, che la gente si renderà conto che è uno sport come tutti gli altri, tutte queste etichette andranno via da sole, perché comunque essere uno sport olimpico vuol dire, implica tante cose al giorno d'oggi e sicuramente la gente si accorgerà che della bellezza di questo sport. Chiedo invece a Francesco Molinari, conquistata quella che è la Davis del golf, andando avanti per semplificazioni, il prossimo obiettivo però sarebbe una bella convocazione per la Ryder Cup, no? Che è un po' la laurea del grande campione, la sfida che si tiene ogni anno tra i grandi golfisti europei e i grandi golfisti statunitensi, no Francesco? Sì, è un torneo assolutamente fantastico, con una tradizione grandissima, ovviamente sarebbe una cosa magnifica potervi partecipare, molto difficile perché è appunto una sfida tra i 12 migliori europei contro i 12 migliori americani, per cui ovviamente c'è tantissima competizione per farvi parte a questa squadra, a questo torneo, però speriamo, se la stagione andrà nel migliore dei modi possibili, di poter coronare questo momento fantastico con quest'ultima gioia. Anche perché qua in questo caso Diana Luna già va battuto, perché lei sì che è arrivata alla convocazione nella Solheim Cup, che è diciamo la Ryder Cup al femminile, quindi anche nel golf come negli altri sport bisogna inseguire le donne, Francesco. Eh sì, per le donne è stato un anno fantastico, ma comunque è già un po' di anni che le donne italiane si fanno valere sul tour europeo, per cui sì, è vero, Diana ci ha battuto sul tempo, diciamo, per cui speriamo di recuperare appena possibile, però comunque credo che le donne italiane si meritino tutti i successi che stanno avendo. Edoardo, fuori dal green invece che coppia siete? C'è un colpo, un atteggiamento, un'attitudine che invidi in particolare a Francesco? Di particolare non invidio nulla, direi che siamo abbastanza simili tutti e due, siamo due persone molto tranquille, molto calme, con pochi amici ma fidati. Siamo molto simili uno con l'altro e forse anche per questo andiamo molto d'accordo. Francesco, che cos'è che invece potrebbe incrinare questa squadra eccezionale? C'è un qualcosa che comunque mette a dura prova il legame familiare sia all'interno di questo team vincente? Ma no, non penso niente, perché comunque e da quando eravamo piccoli che siamo abituati a giocare insieme, a giocare contro altre volte, per cui sappiamo benissimo che questo è solo uno sport, anche se è diventato il nostro lavoro, e per cui credo che continueremo ad andare avanti insieme e speriamo di continuare ad avere successi entrambi. Senti, abitualmente il golf è l'hobby di molte persone che trovano sul green nel momento della rilassatezza, del contatto con la natura. Per un golfista professionista invece quali sono gli hobby? Ma sono gli hobby più o meno di molti ragazzi come noi: uscire con gli amici, andare al cinema, piuttosto che siamo tutti e due abbastanza appassionati di internet, per cui direi niente di così particolare. Edoardo, prossimo obiettivo sul green e soprattutto fuori dal green? So che entrambi siete supportati dalle vostre famiglie, riuscite a far coincidere al meglio la vita familiare con l'attività professionistica. Ecco, fuori dal green, quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Sinceramente adesso la mia vita è abbastanza improntata sul golf, quindi fuori dal green non ho particolari obiettivi. Sicuramente prima o poi mi farò anche io una famiglia come Francesco, che è stato, però al momento direi che sono felice così e poi piano piano penserò anch'io a farmi una famiglia. E allora l'augurio è quello di ottenere tanti altri grandi successi dentro e fuori dal green per quelli che sono di fatto diventati gli ambasciatori nel mondo del golf italiano. Grazie a Francesco Molinari. Grazie a voi, arrivederci. E grazie Edoardo Molinari e grazie a entrambi per le soddisfazioni e i successi che avete conquistato. Grazie, grazie mille. A bordo campo. Oggi a bordo campo raccontiamo una storia di basket femminile, di una vittoria ottenuta sul campo ma poi cancellata per un orpello di carattere burocratico sotto i canestri della A1 femminile della nostra pallacanestro nella sfida tra Faenza e Venezia di qualche settimana fa. Sentite questo servizio che ci racconta tutto, realizzato da Massimo Di Scienza. La prima partita, quella contro il tumore, Cristina Bassi, vice allenatore della squadra femminile di basket di Faenza, la sta giocando giorno dopo giorno. La grinta e la voglia di farcela non le mancano. L'altra, contro la Reyer Venezia, la sua prima volta da capo tecnico, l'aveva vinta sul campo domenica scorsa grazie ad una rimonta delle sue ragazze. Termina la partita con la vittoria importantissima e grandissima del club atletico contro le fortissime giocatrici dell'Umana Venezia. Alla sirena abbracci, sorrisi e lacrime a mescolarsi in campo, Cristina portata in trionfo dai tifosi faentini. Ma la gioia dura due giorni, la federazione cancella quella vittoria ed infligge a Faenza la sconfitta a tavolino, ex articolo 62 del regolamento FIP. La società non aveva comunicato per tempo che Cristina avrebbe sostituito il capo allenatore Rossi, influenzato. Burocrazia allo stato puro, che non può scalfire però quanto di bello c'è nel rapporto tra la squadra e la loro coach in questi momenti così delicati. Queste ragazze mi sono state molto vicine dall'inizio della stagione perché subendo questa terapia ovviamente ci sono periodi in cui non si sta molto bene, però il fatto di andare in palestra è una carica energetica a cui io non posso fare meno. Quindi quando mi presento in palestra che non sono proprio al massimo delle mie forze, io sento la loro vicinanza e sento il loro volermi bene. Parole ed emozioni che l'articolo 62 del regolamento della Federbasket non può cancellare. Le sanzioni devono essere prese a livello burocratico, ma per quanto riguarda i valori in campo, io spero che non vengano falsati. Questa quindi la vicenda: Faenza vince sul campo, ma poi la burocrazia cancella questa vittoria e anzi assegna uno 0-20 a Venezia. Cristina Bassi, benvenuta a bordo campo. Allora, come è andata a finire questa storia? Faenza, la squadra che lei allena, di cui lei è vice allenatrice, alla fine i due punti in classifica ce l'ha o no? Sì, fortunatamente il ricorso è stato accettato, è prevalso il buon senso e il giudice ha accolto il risultato ottenuto sul campo, annullando lo 0-20 che ci aveva penalizzato in maniera, diciamo, quasi immeritata. Beh, togliamo pure il quasi, perché insomma una vittoria sul campo cancellata da una mail o da un avviso non inviato diciamo da Faenza che pure era consapevole del fatto che il tecnico Rossi influenzato non avrebbe potuto sedere in panchina, che quindi lei in quell'occasione avrebbe fatto le sue veci. Beh, insomma, ribaltare il risultato del campo per un errore procedurale di questo tipo era sembrata a tutti una cosa piuttosto clamorosa, no? Sì, diciamo che le regole sono ancora un po' in fase di sviluppo, anche perché ogni assistente, nonostante sia assistente, deve essere in possesso di tessera di allenatore nazionale, quindi equiparato all'allenatore, al capo allenatore. Quindi è proprio una questione burocratica, che un cavillo per cui anche perché diciamo in anni che io sono nella pallacanestro è il primo anno che succede che un allenatore capo per motivi di salute non possa essere in panchina e quindi viene a sostituire il vice. È stato tutto un po' così all'improvviso, e quindi il non essere abituati a fare queste cose o un pelino di diciamo anche superficialità ha fatto sì che la burocrazia potesse interferire sullo sport, annullando un risultato ottenuto pienamente in campo, anche perché le ragazze erano sempre le stesse. In panchina non era stato chiamato Sergio Scariolo, ma io, quindi mi sembrava immeritato togliere alle ragazze questi due punti che se li erano guadagnati. Beh, insomma, quando Cristina Bassi dice beh, non sono Sergio Scariolo, il grande allenatore della nazionale spagnola, del Khimki di Mosca, comunque, e quando dice sono nel basket da qualche anno, facciamo anche due conti, Cristina. Lei oggi ha 45 anni, ha iniziato a giocare sotto i canestri all'età di 12, quindi insomma un pochino di esperienza la sta mettendo a frutto su quella panchina, eh? Sì, diciamo che io adesso ho un grande mentore che è Paolo Rossi, che io considero tuttora uno dei più quotati allenatori di basket per quanto riguarda la femminile. Io sto imparando molto da Paolo, anche perché oltre ad essere un ottimo tattico è un ottimo stratega, capisce di pallacanestro, l'ha vissuta anche lui perché è un ex giocatore, la capisce, quindi è veramente per me un banco di scuola. Quindi il fatto che Paolo fosse in ospedale, nonostante tutto, insomma, i suoi insegnamenti sia alle ragazze che a me, abbiamo cercato di portarli avanti e di attuarli in campo. Non eravamo sole nonostante lui fosse davanti a un computer in ospedale. Tra l'altro quella contro Venezia era anche la sua partita d'esordio come capo allenatrice, diciamo così, e quindi direi che due punti valgono doppio per l'occasione. Ma sì, era la prima volta, anche perché poi in casa davanti al pubblico di Faenza, io sono faentina e adoro la mia città come tutti adoriamo la nostra, davanti a 2000 persone, cioè è stata un'emozione unica che penso sia il sogno nel cassetto di ogni allenatore, fare un esordio così vincente con acclamazione finale come avessimo vinto una Coppa dei Campioni, via, è stata una bella esperienza emozionante. Ci racconti com'è andata al primo time out, perché poi forse è quello un po' il momento della verità, no? In cui l'allenatore chiama appunto lo stop del gioco e comincia a dare la sua impronta alla partita, no? Dopo tutto il lavoro che c'è stato prima. Però insomma il primo time out credo che non si scorda mai, per un allenatore di basket me lo conceda, forse è un po' come il primo amore. Ma diciamo che per quello che mi riguarda la parte più coinvolgente è l'uscita dagli spogliatoi, dove oltre alle ultime raccomandazioni tattiche c'è quel discorso che carica, che motiva, che incita. E per quanto riguarda il time out, no, sinceramente non me lo ricordo, anche perché siamo un gruppo veramente affiatato, quindi Paolo l'avevamo sentito nello spogliatoio in viva voce prima di uscire e aveva chiesto alle ragazze di aiutarmi, di non fare confusione. Però quest'anno è stata costruita una squadra veramente affiatata, un gruppo di ragazze che oltre che diciamo professioniste sono anche amiche e fanno di tutto per aiutarsi e hanno fatto di tutto anche per aiutarmi e non mettermi in difficoltà. Quindi diciamo che la gestione della partita è non è stata agitata, non è stata convulsa, anche perché quando senti questo feeling, questo affiatamento, la fiducia è talmente tanta in ogni elemento che va in campo che non c'è angoscia, non c'è agitazione, cioè agitazione sì, ma non c'è agitazione nella paura di sbagliare. È un gruppo unito, affiatato anche nel cercare di vincere un'altra partita, no? Decisamente più importante di quella che si gioca tra due canestri e poco più di 20 metri di un campo da basket, in cui lei, Cristina, è in prima fila, ma tutta la squadra direi che le è a fianco e vicino e intorno. Ce la vuole raccontare? Sì, brevemente, perché non vorrei fare un talk show da strappalacrime. Recentemente sto subendo una cura di chemioterapia, devo fare 8 cicli, quindi cure che si fanno per salvarsi e non per stare male, però ovviamente sono cure molto invasive che creano problemi fisici. Qualche volta mi devo assentare dalla palestra perché diventa dura da sopportare i primi giorni, quindi le ragazze, ovviamente conoscendo la mia storia, mi sono molto vicine e mi danno forza, mi danno coraggio e mi danno un motivo in più per amare ancora di più questa vita, nonostante io abbia una famiglia eccezionale che mi è stata molto vicina, nonostante io abbia attorno persone che mi vogliono bene, però ci sono stimoli che arrivano, che vanno al di là di un cerchio familiare, e secondo me il fatto di credere nello sport e di vivere nello sport è una forza in più che uno ha, è una chance in più, anche perché siamo chiamati ogni domenica a confrontarci con un avversario dove poi qualcuno uscirà vinto e qualcuno è sconfitto, ma comunque si va sempre per vincere, per fare il meglio, non per giocarsela ed uscire sconfitti. Quindi il fatto di stare nello sport, il fatto di avere un gruppo che mi aiuta, che io sento vicino, mi dà quella forza in più. Cristina Bassi, grazie per essere stata a bordo campo e grazie anche per questo amore per lo sport, per la palla spicchi, per il lavoro che si fa ogni giorno, che traspare dalle sue parole. E veramente, oltre ai migliori successi per la sua Faenza, le auguriamo veramente di riuscire a fare il canestro più bello e anzi di tornare magari qui a bordo campo per condividere insieme quest'altra grande vittoria. La ringrazio tantissimo. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abordocampo@radio24.it e riascoltarci sul nostro sito internet www.radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.